Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail: un abuso al giorno @radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Si chiama Guardie o Ladri. Lo trovate facilmente attraverso un motore di ricerca. Sapete che in questo blog io tratto soltanto ed esclusivamente di criminalità organizzata, o meglio ancora di economia criminale e di illegalità. E a proposito di economia criminale, o mettetela come volete voi, criminalità economica, da ieri stiamo parlando di truffe milionarie sui parchi eolici e sul rischio che le mafie allunghino le mani, anzi un rischio più che concreto, dire quasi una certezza, sull'energia verde sostenibile. Se visiterete il mio blog troverete che alcuni giorni fa, pochissimi giorni fa, ho dedicato un lunghissimo post ad una denuncia dell'onorevole Mauro Pili. L'onorevole Pili è stato governatore della regione Sardegna e alcune settimane fa ha denunciato il rischio che corposi investimenti che si stanno effettuando in Sardegna abbiano dietro una lunghissima serie di scatole cinesi. Alla radice, quindi proprio all'inizio di questa catena di società, la possibilità, non diciamo la certezza, ma poi sentiremo che su questo si indagherà, la possibilità di capitali di oscura provenienza. Allora, per parlare quindi della Sardegna e della Sicilia e dell'interesse che ha il governo e il Parlamento, l'attenzione su questi temi, ho il piacere di avere con noi collegato l'onorevole Mauro Pili del Partito delle Libertà. Buongiorno Pili. Buongiorno a voi. E il suo collega Fabio Granata, sempre onorevole per il Partito delle Libertà, che è vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. Buongiorno Granata. Buongiorno. Pili, partiamo dalle sue denunce. Che cosa ha scoperto? Ma sostanzialmente quello che ci ha allertato è stato un progetto nella costa oristanese denominato Isarenas, proprio richiamando la costa, che avrebbe dovuto ospitare un impianto eolico offshore di circa 80 pale piazzate in mezzo al mare in un contesto straordinario, tra l'altro sotto tutela paesaggistico ambientale della stessa Unione Europea. E quando si è andati a vedere chi fossero i soggetti tanto azzardati da presentare un progetto in tale contesto, ci siamo resi conto che c'erano due prime anomalie, diciamo così, sul piano residenziale. La residenza del titolare o di quello che comunque era indicato come amministratore era Monte Carlo, e invece la residenza fiscale della società che finanziava questa ipotesi di progetto era nel Lussemburgo. Ovviamente non vi è nessun reato nel apporre le proprie residenze in queste straordinarie località fiscali, però è evidente che questo nasconde tanti segreti e soprattutto dove ci sono molti affari bisogna andare a capire chi realmente sta investendo in questo, ecco, in questo business. Giustamente lei dice le antenne si devono alzare in questo caso. Ma diciamo che in Lussemburgo le società come questa vengono registrate con lo status di società anonime e quindi già questo dovrebbe indurre una riflessione: società senza nome e cognome, capitali tutti provenienti da depositi nei paradisi fiscali e intrecci e castelli societari impossibili o quasi da ricostruire. Certo. In questo caso il richiamo era a una società madre dove vi erano partecipazioni, la sintetizzo, la cosiddetta società Kitec, passata agli onori della cronaca perché un ricapitalizzazione negli anni 2005-2006 aveva avuto un contributo, tra virgolette, del cosiddetto tesoro dell'ex sindaco di Palermo Ciancimino per 1.900.000 euro. Alla fine dei giochi vi sono dei contatti avuti tra società di cui appunto l'amministratore era titolare di una parte delle quote, e quindi è evidente che la parte politica che si è occupato di questo non poteva che chiedere alla Commissione Antimafia di andare a vedere quello che stava succedendo. Benissimo, benissimo. Io la interrompo qui, Pili, perché da buon giornalista quale lei è stato nel passato, ha riassunto come meglio non si poteva il caso. E veniamo proprio al coinvolgimento della Commissione parlamentare antimafia, perché l'onorevole Pili ha preso carta e penna, metaforicamente parlando, e ha scritto al presidente della Commissione parlamentare antimafia, Beppe Pisanu, ex ministro dell'interno, e gli ha detto in buona sostanza, io volgarizzo in maniera tale che tutti possiate capire: caro Beppe, guarda un po', cerca un po' di capire che cosa sta avvenendo qui in Sardegna, ma già che ci sei, beh, dai un'occhiata anche a quello che sta accadendo nel resto d'Italia. E del resto, onorevole Granata, purtroppo Trapani è già passata agli onori, anzi ai disonori della cronaca, proprio per la longa manus dei imprenditori e di soggetti vicini al boss Matteo Messina Denaro, proprio per investimenti milionari nel parco eolici. È così, giusto, onorevole? Sì, è esattamente così. Infatti la segnalazione del collega Pili è stata puntuale, è stata, come dire, per certi versi condivisa apertamente dal presidente Pisanu, ovviamente dal sottoscritto, che già in commissione aveva aperto un primo fascicolo di inchiesta sulle vicende che lei adesso ha citato, che riguardano la Sicilia. Una considerazione complessiva: Sicilia, Sardegna, il sud d'Italia, Calabria, Puglia e Campania soprattutto, sono letteralmente invase da paleoliche e sono letteralmente invase da richieste di ulteriori impianti. Tutto questo ovviamente è fuori da ogni logica di programmazione di produzione di energia. Nel caso delle isole c'è anche un aspetto tecnico che dobbiamo considerare: tutto ciò che eccede la produzione energetica isolare, nel caso della Sicilia quasi del tutto, non può neanche essere trasferito in sede nazionale in campo energetico, perché il conduttore è unico e quindi sul piano tecnico è anche impossibile utilizzare questo surplus di energia per il fabbisogno energetico nazionale. Se a questo aggiungiamo che molte di queste pale non sono neanche collegate agli impianti, moltissimo, una percentuale altissima, e si vede che la speculazione, così come alcune inchieste hanno già in parte iniziato ad accertare, riguarda i terreni sui quali sorgono, ma è molto di più, le sovvenzioni più alte d'Europa esistono in Italia per gli impianti eolici, e un prezzo generosissimo, per usare un eufemismo, sui cosiddetti certificati verdi che possono essere scambiati in borsa. E sostanzialmente l'Italia, e soprattutto la parte più fragile della nostra nazione, il meridione, sono adesso a rischio, e a rischio uno dei beni culturali più importanti di queste regioni, che è il paesaggio. Assolutamente. Ecco, io però la interromperei un attimo per vedere se io ho ben capito quello che lei ha detto, perché lei si è spiegato benissimo, ma volevo proprio capirlo meglio per spiegarlo meglio ai nostri radioascoltatori. Cioè, lei ci sta dicendo che nelle isole il surplus di energia prodotta va persa, in buona sostanza, perché non può essere immessa in un circuito di energia elettrica nazionale. Lì sta, lì rimane, se lì viene prodotta di più, lì si perde, giusto? Giustissima, ammesso che venga prodotta, perché in molti casi non viene neanche prodotta, perché ovviamente l'energia eolica è di per sé un'energia non stabile, e quindi la terna che stabilisce il contatto attraverso il cavo sottomarino col resto della nazione preferisce un apporto stabile di energia rispetto a quell'eolica, che potrebbe determinare anche dei blackout al sistema energetico nazionale. Questo è un aspetto tecnico. Poi, se ieri viene arrestato l'uomo che ha incarnato per certi versi la lobby dell'eolico in Italia, ecco, molte questioni stanno, come dire, andandosi a definire come un mosaico che noi, insieme a pochi all'inizio, io penso a Carlo Ripa di Meana soprattutto, sì, perché vede, questo sì, è un argomento particolare, perché sembra parlare contro le energie alternative, certo, e invece un decreto finalizzato al bene come quello del ministro Bersani sulla liberalizzazione dell'energia invece ha ucciso le energie fotovoltaiche, per esempio quelle solari, a beneficio sostanziale di questi imprenditori che si sta scoprendo non essere sempre appartenenti a questa categoria benemerita, ma purtroppo a quella degli speculatori sul paesaggio e sul territorio, a spese appunto dell'eolico. Ecco, un'ultima domanda, onorevole Granata, e probabilmente lei si metterà a ridere ora che glielo dico, io sto da alcuni mesi, a seguito anche di alcune trasmissioni che abbiamo fatto ospitando, anzi vi invito ad andare a scaricare sul nostro sito le puntate, imprenditori in Calabria che denunciavano le incredibili stranezze e irregolarità. Lei saprà, quindi forse si metterà a ridere, che nella zona del Crotonese c'è un impianto eolico, insomma, riconducibile ad una famiglia non propriamente pulita, e saprà anche che quei terreni su cui si è costruito sono della famiglia stessa. Esattamente la stessa circostanza casuale che si è verificata a Trapani in provincia di Palermo. Esattamente. Rispetto ad alcuni comuni sciolti per mafia su terreni che appartenevano in parte già sequestrati, in parte no, a famiglie mafiose, dove anche con incredibili mutamenti di opinione dei consigli comunali da un giorno all'altro si sono autorizzate queste installazioni. Allora serve, a mio avviso, una grande moratoria nazionale sull'installazione delle paleoliche, un ragionamento sul fabbisogno energetico che devono avere e dire a cosa serve all'Italia, cioè tornare al bene comune della produzione dell'energia, che è un campo importantissimo e strategico e non può essere lasciato in mano agli speculatori. È una cosa troppo importante per lasciarla in mano a chi si improvvisa. Ringrazio l'onorevole Pili e l'onorevole Granata per i loro interventi, così come gli ospiti che sono intervenuti ieri in queste due puntate molto interessanti sull'energia eolica e sui rischi ad essa connessa di truffe e di infiltrazioni mafiose. Dico grazie a Pietro Lacorte in regia e Elisabetta Fusconi in studio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.